Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, settima traccia. Ma come si suol dire, botta e risposta, perché il burattino, come c'era da aspettarselo, rispose subito con un altro pugno e lì, da un momento all'altro, il combattimento diventò generale e accanito. Pinocchio, sebbene fosse solo, si difendeva come un eroe. Con quei suoi piedi di legno durissimo lavorava così bene da tener sempre i suoi nemici a rispettosa distanza. Dove i suoi piedi potevano arrivare e toccare, ci lasciavano sempre un livido per ricordo. Allora, i ragazzi, indispettiti di non potersi misurare col burattino a corpo, pensarono ben di metter mano ai proiettili e, sciolti i fagotti dei loro libri di scuola, cominciarono a scagliare contro di lui i sillabari, le grammatiche, i giannettini, i minuzzoli, i racconti del Tuar e il pulcino della Baccini e altri libri scolastici. Ma il burattino, che era d'occhio svelto e ammalizzito, faceva sempre civetta a tempo, sicché i volumi, passandogli di sopra il capo, andavano tutti a cascare nel mare. Figuratevi i pesci! I pesci, credendo che quei libri fossero roba da mangiare, correvano a frotte a fior d'acqua. Ma dopo aver abboccata qualche pagina o qualche frontespizio, la rispottavano subito, facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire «Beh, non è roba per noi, siamo avvezzi a cibarci molto meglio!» Intanto il combattimento si inferociva sempre più. Quand'ecco che un grosso granchio che era uscito fuori dall'acqua e s'era adagio arrampicato fin sulla spiaggia, gridò con una vociaccia di trombone infreddato. «Smettetela, birichini, che non siete altro! Queste guerre manesche tra ragazzi e ragazzi raramente vanno a finir bene. Qualche disgrazia accade sempre!» Povero granchio, fu lo stesso che avesse predicato al vento. Anzi, quella birba di Pinocchio, voltandosi indietro a guardarlo in cagnesco, gli disse sgarbatamente: «Chetati, granchio dell'uggia! Faresti meglio a succiare due pasticche di lichene per guarire da codesta infreddatura di gola. Vai piuttosto a letto e cerca di sudare!» In quel frattempo, i ragazzi, che avevano finito ormai di tirare tutti i loro libri, occhiarono lì, a poca distanza, il fagotto dei libri del burattino e se ne impadronirono in men che non si dice. Fra questi libri v'era un volume rilegato in cartoncino grosso, con la costola e con le punte di carta pecora. Era un trattato di aritmetica. Vi lascio immaginare se era peso di molto. Uno di quei monelli agguantò quel volume e, presa di mira la testa di Pinocchio, lo scagliò con quanta forza aveva nel braccio. Ma invece di cogliere il burattino, colse nella testa uno dei compagni, il quale diventò bianco come un panno lavato e non disse altro che queste parole: «Oh, mamma mia, aiutatemi perché muoio!» Poi cadde disteso sulla rena del lido. Alla vista di quel morticino, i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non si videro più. Ma Pinocchio rimase lì. E sebbene per il dolore e per lo spavento anche lui fosse più morto che vivo, non di meno corse ad inzuppare il suo fazzoletto nell'acqua del mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola. E intanto, piangendo dirottamente e disperandosi, lo chiamava per nome e gli diceva: «Eugenio, povero Eugenio mio, apri gli occhi, guardami! Perché non mi rispondi? Non sono stato io, sai, che ti ho fatto tanto male. Credilo, non sono stato io. Apri gli occhi, Eugenio. Se tieni gli occhi chiusi, mi farai morire anche me. Oh, Dio mio, come farò ora a tornare a casa? Con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma? Che sarà di me? Dove fuggirò? Dove andrò a nascondermi? Oh, quant'era meglio, mille volte meglio, che fossi andato a scuola! Perché ho dato retta a questi compagni che sono la mia dannazione? E il maestro me l'aveva detto, e la mia mamma me l'aveva ripetuto: guardati dai cattivi compagni!» ma io sono un testardo, un caparbiaccio. Lascio dir tutti e poi fo sempre a modo mio. E dopo mi tocca a scontarle. E così, da che sono al mondo, non ho mai avuto un quarto d'ora di bene. Dio mio, che sarà di me? Che sarà di me? Che sarà di me? E Pinocchio continuava a piangere, a berciare, a darsi dei pugni nel capo e a chiamar per nome il povero Eugenio, quando sentì a un tratto il rumore sordo di passi che si avvicinavano. Si voltò. Erano due carabinieri. «Cosa fai? Costà sdraiato per terra?» domandarono a Pinocchio. «Assisto questo mio compagno di scuola.» «Che gli è venuto male?» «Par di sì.» «Altro che male!» disse uno dei carabinieri chinandosi ad osservando Eugenio da vicino. «Questo ragazzo è stato ferito in una tempia. Chi è che l'ha ferito?» «Io no!» balbettò il burattino che non aveva più fiato in corpo. «Se non sei stato tu, chi è stato dunque che l'ha ferito?» «Io no!» ripeté Pinocchio. «E con che cosa è stato ferito?» «Con questo libro!» E il burattino raccattò di terra il trattato di aritmetica rilegato in cartone e cartapecora per mostrarlo al carabiniere. «E questo libro di chi è?» «È mio!» «Basta così, non occorre altro. Rizzati subito e vieni via con noi.» «Ma io...» «Via con noi!» «Ma io sono innocente!» «Via con noi!» Prima di partire, i carabinieri chiamarono alcuni pescatori che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia e dissero loro: «Vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo. Portatelo a casa vostra e assistetelo. Domani torneremo a vederlo.» Quindi si volsero a Pinocchio e dopo averlo messo in mezzo a loro due gli intimarono con accento soldatesco: «Avanti! E cammina spedito, se no peggio per te!» Senza farselo ripetere, il burattino cominciò a camminare per quella viottola che conduceva al paese. Ma il povero diavolo non sapeva più nemmeno lui in che mondo si fosse. Gli pareva di sognare, e che brutto sogno! Era fuori di sé. I suoi occhi vedevano tutto doppio. E le gambe gli tremavano, la lingua gli era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola. Eppure, in mezzo a quella specie di stupidità e di rintontimento, una spina acutissima gli bucava il cuore. Il pensiero, cioè, di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona fata in mezzo ai carabinieri, avrebbe preferito piuttosto di morire. Erano già arrivati e stavano per entrare in paese quando una folata di vento strapazzone levò di testa Pinocchio il berretto, portandoglielo lontano una diecina di passi. «Si contentano», disse il burattino ai carabinieri, «che vada a riprendere il mio berretto.» «Vai pure, ma facciamo una cosa lesta.» Il burattino andò, raccattò il berretto, ma invece di metterselo in capo, se lo mise in bocca tra i denti e poi cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare. Andava via come una palla di fucile. I carabinieri, giudicando che fosse difficile raggiungerlo, gli aizzarono dietro un grosso cane mastino che aveva guadagnato il primo premio in tutte le corse dei cani. Pinocchio correva e il cane correva più di lui. Per cui tutta la gente si affacciava alle finestre e si affollava in mezzo alla strada, ansiosa di veder la fine di questo palio feroce. Ma non poté levarsi questa voglia, perché il cane mastino e Pinocchio sollevarono lungo la strada un tal polverone che dopo pochi minuti non fu più possibile di veder nulla. Capitolo 28. Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce. Durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile, un momento in cui Pinocchio si credé perduto, perché bisogna sapere che Alidoro, era questo il nome del can mastino, a furia di correre e correre l'aveva quasi raggiunto. Basti dire che il burattino sentiva dietro di sé, alla distanza d'un palmo, l'ansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva perfino la vampa calda delle fiatate. Per buona fortuna la spiaggia era ormai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi. Appena fu sulla spiaggia, il burattino spiccò un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un ranocchio e andò a cascare in mezzo all'acqua. Alidoro invece voleva fermarsi, ma trasportato dall'impeto della corsa, entrò nell'acqua anche lui. E quel disgraziato non sapeva nuotare, per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla, ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua. Quando tornò a rimettere il capo fuori, il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e abbaiando gridava «Affogo! Affogo! Crepa!» Gli rispose Pinocchio da lontano, il quale si vedeva ormai sicuro da ogni pericolo. «Aiutami, Pinocchino mio! Salvami dalla morte!» A quelle grida strazianti, il burattino, che in fondo aveva un cuore eccellente, si mosse a compassione e, voltosi al cane, gli disse: «Ma se io ti aiuto a salvarti, mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro?» te lo prometto, spicciati per carità, perché se indugi un altro mezzo minuto, son belle morto!» Pinocchio esitò un poco, ma poi, ricordandosi che il suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai, andò nuotando a raggiungere Alidoro e, presolo per la coda con tutte e due le mani, lo portò sano e salvo sulla rena asciutta del Lido. Il povero cane non si reggeva più in piedi, aveva bevuto senza volerlo tant'acqua salata che era gonfiato come un pallone. Peraltro il burattino, non volendo fare a fidarsi troppo, stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e, allontanandosi dalla spiaggia, gridò all'amico salvato: «Addio, Alidoro! Fai buon viaggio e tanti saluti a casa!» «Addio, Pinocchino! Mille grazie di avermi liberato dalla morte! Tu mi hai fatto un gran servizio e in questo mondo quel che è fatto è reso. Se capita l'occasione ci riparleremo!» Pinocchio seguitò a nuotare, tenendosi sempre vicino alla terra. Finalmente gli parve di esser giunto in un luogo sicuro e, dando un'occhiata alla spiaggia, vide sugli scogli una specie di grotta dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo. «In quella grotta», disse allora fra sé, «ci deve essere del fuoco. Tanto meglio, anderò a rasciugarmi e a riscaldarmi. E poi?» «E poi sarà quel che sarà!» Presa questa risoluzione, si avvicinò alla scogliera, ma quando fu lì per arrampicarsi, sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva e lo portava per aria. Tentò subito di fuggire, ma oramai era tardi, perché con sua grandissima meraviglia si trovò rinchiuso dentro a una grossa rete, in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza, e che scodinzolavano e si dibattevano come tant'anime disperate. E nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto, ma tanto brutto, che pareva un mostro marino. Invece di capelli aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde. Verde era la pelle del suo corpo, verdi gli occhi, verde la barba lunghissima che gli scendeva fin quaggiù. Pareva un grosso ramarro retto sui piedi di dietro. Quando il pescatore ebbe tirato fuori la rete dal mare, gridò tutto contento: «Provvidenza benedetta! Anch'oggi potrò fare una bella scorpacciata di pesce!» «Oh, manco male che io non sono un pesce!» disse Pinocchio dentro di sé, ripigliando un po' di coraggio. La rete piena di pesci fu portata dentro la grotta, una grotta buia e affumicata, in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio che mandava un odorino di moccolaia da mozzare il respiro. «Ora vediamo un po' che pesci abbiamo presi!» disse il pescatore verde, e ficcando nella rete una manona così sproporzionata che pareva una pala da fornai, tirò fuori una manciata di triglie. Buone queste triglie, disse guardandole e annusandole con compiacenza, e dopo averle annusate le scaraventò in una conca senz'acqua. Poi ripeté più volte la solita operazione, e via via che cavava fuori gli altri pesci, sentiva venirsi l'acquolina in bocca e gongolando diceva: buoni questi naselli, squisiti questi muggini, deliziose queste sogliole, prelibati questi ragnotti, carine queste acciughe col capo. Come potete immaginarvelo, i naselli, i muggini, le sogliole, i ragnotti e le acciughe andarono tutte alla rinfusa nella conca a tener compagnia alle triglie. L'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio. Appena il pescatore l'ebbe cavato fuori, sgranò dalla meraviglia i suoi occhioni verdi, gridando quasi impaurito: «Ma che razza di pesce è questo? Dei pesci fatti a questo modo non mi ricordo di averne mangiati mai!» E tornò a guardarlo attentamente, dopo averlo guardato ben bene per ogni verso, finì col dire: «Oh, ho già capito, deve essere un granchio di mare!» Allora Pinocchio, mortificato di sentirsi scambiare per un granchio, disse con accento risentito: «Ma che granchio e non granchio, ma guardi come lei mi tratta! Io, per sua regola, sono un burattino!» «Un burattino!» replicò il pescatore. «Beh, dico la verità, ma il pesce burattino per me è un pesce nuovo. O meglio così, ti mangerò più volentieri.» «Mangiarmi? Ma la vuol capire che io non sono un pesce? Oh, non sente che parlo e ragiono come lei?» «È verissimo. E siccome vedo che sei un pesce che hai la fortuna di parlare e di ragionare come me, così voglio usarti anch'io i dovuti riguardi.» «E questi riguardi sarebbero?» «Beh, in segno di amicizia e di stima particolare, lascerò a te la scelta del come vuoi essere cucinato. Desideri essere fritto in padella oppure preferisci di essere cotto nel tegame con la salsa di pomodoro?» «A dir la verità, se io debbo scegliere, preferisco piuttosto di essere lasciato libero per potermene tornare a casa mia.» «Tu scherzi? Ti pare che io voglia perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro? Non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari. Ah, lascia fare a me. Ti friggerò in padella insieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento. L'essere fritto in compagnia è sempre una consolazione.» L'infelice Pinocchio a questa antifona cominciò a piangere, a strillare, a raccomandarsi, e piangendo diceva: «Quant'era meglio che fosse andato a scuola! Ho voluto dare ai compagni e ora la pago!» E perché si divincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per risgusciare dalle grinfie del pescatore verde, questi prese una bella buccia di giunco e, dopo averlo legato per le mani e per i piedi come un salame, lo gettò in fondo alla conca con gli altri. Poi, tirato fuori un vassoiaccio di legno pieno di farina, si dette ad infarinare tutti quei pesci e, man mano che li aveva infarinati, li buttava a friggere dentro la padella. I primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli. Poi toccò ai ragnotti, poi ai muggini, poi alle sogliole e alle acciughe, e poi venne la volta di Pinocchio, il quale, a vedersi così vicino alla morte, e che brutta morte, fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi. Il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi. Ma il pescatore verde, senza badarlo neppure, lo avvoltolò 5 o 6 volte nella farina, infarinandolo così bene dal capo ai piedi che pareva diventato un burattino di gesso. Poi lo prese per il capo e... Capitolo 29. ritorna a casa dalla fata, la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino, ma diventerà un ragazzo. Gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento. Mentre il pescatore era proprio sul punto di buttar Pinocchio nella padella, entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura. «Passa via!» gridò il pescatore, minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato. Ma il povero cane aveva una fame per quattro e mugolando e dimenando la coda pareva che dicesse «Dammi un boccon di frittura e ti lascio in pace!» «Passa via, ti dico!» gli ripeté il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata. Allora il cane, che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso, si rivoltò ringhioso al pescatore mostrandogli le sue terribili zanne. In quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse «Salvami, Alidoro! Se non mi salvi, son fritto!» Il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e si accorse con grandissima maraviglia che la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano. Allora che cosa fa? Spicca un gran lancio da terra, abbocca quel fagotto infarinato e, tenendolo leggermente coi denti, esce correndo dalla grotta e via come un baleno. Il pescatore, arrabbiatissimo di vedersi strappare di mano un pesce che egli avrebbe mangiato tanto volentieri, si provò a rincorrere il cane, ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dove tornarsene indietro. Intanto Alidoro, ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese, si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio. «Quanto ti debbo ringraziare!» «Ah, non c'è bisogno. Tu salvasti me e quel che è fatto è reso. E si sa, in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro.» «Ma come mai sei capitato in quella grotta?» «Ero sempre qui, disteso sulla spiaggia, più morto che vivo. Quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura, quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro. Se arrivavo un minuto più tardi...» «Non me lo dire!» urlò Pinocchio, che tremava ancora dalla paura. «Non me lo dire! Se tu arrivavi un minuto più tardi, a quest'ora io ero belle fritto, mangiato e digerito. Mi vengono i brividi soltanto a pensarvi!» Alidoro, ridendo, stese la zampa destra verso il burattino, il quale gliela strinse forte forte in segno di grande amicizia, e dopo si lasciarono. Il cane riprese la strada di casa e Pinocchio, rimasto solo, andò a una capanna lì poco distante e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole: «Dite, galantuomo, sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo e che si chiamava Eugenio?» «Il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna e ora...» «Ora sarà morto!» interruppe Pinocchio con gran dolore. «No, no, ora è vivo ed è già ritornato a casa sua.» «Davvero, davvero?» gridò il burattino saltando dall'allegrezza. «Dunque... la ferita non era grave?» «Ma poteva riuscire gravissima e anche mortale, perché gli tirarono sul capo un grosso libro rilegato in cartone.» «E chi glielo tirò?» «Un suo compagno di scuola, un certo Pinocchio.» «E chi è questo Pinocchio?» domandò il burattino facendolo gnorri. «Dicono che sia un ragazzaccio, un vagabondo, un vero rompicollo.» «Calunnie, tutte calunnie.» «E lo conosci tu, questo Pinocchio?» «Di vista.» «E tu che concetto ne hai?» «A me mi pare un gran buon figliuolo, pieno di voglia di studiare, ubbidiente, affezionato al suo babbo e alla sua famiglia.» Mentre il burattino sfilava a faccia fresca tutte queste bugie, si toccò il naso e si accorse che il naso gli era allungato più d'un palmo. Allora tutto impaurito cominciò a gridare. «Non date retta, galantuomo, a tutto il bene che ve n'ho detto, perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio, un disubbidiente e uno svogliato, che invece di andare a scuola va coi compagni a fare lo sbarazzino». Appena ebbe pronunziate queste parole, il suo naso raccorcì e tornò della grandezza naturale, come era prima. «E perché sei tutto bianco a codesto modo?» gli domandò a un tratto il vecchietto. «Vi dirò, senza avvedermene, mi sono strofinato a un muro che era imbiancato di fresco», rispose il burattino, vergognandosi a confessare che lo avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella. «Oh, e della tua giacchetta, dei tuoi calzoncini e del tuo berretto, che cosa ne hai fatto?» «Ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato. Dite, buon vecchio, non avreste per caso da darmi un po' di vestituccio tanto perché io possa ritornare a casa?» «Ragazzo mio, in fatto di vestiti, io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini. Se vuoi piglialo, eccolo là». E Pinocchio non se lo fece dire due volte. Prese subito il sacchetto dei lupini che era vuoto e dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti, se lo infilò a uso camicia e vestito leggerino a quel modo si avviò verso il paese. Ma lungo la strada non si sentiva punto tranquillo. Tant'è vero che faceva un passo avanti e uno indietro e discorrendo da sé solo andava dicendo: «Come farò a presentarmi alla mia buona fatina? Che dirà quando mi vedrà? Vorrà perdonarmi questa seconda birichinata? No, scommetto che non me la perdona. Ah, no, no, non me la perdona di certo. E mi sta il dovere, perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai». Arrivò al paese che era già notte buia e perché faceva tempaccio e l'acqua veniva giù a catinelle, andò diritto diritto alla casa della fata con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire. Ma quando fu lì, sentì mancarsi il coraggio e invece di bussare si allontanò correndo una ventina di passi. Si avvicinò una seconda volta alla porta e non concluse nulla. Si avvicinò una terza volta e nulla. La quarta volta prese, tremando, il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpettino. «Aspetta, aspetta!» Finalmente, dopo mezz'ora, si aprì una finestra dell'ultimo piano. La casa era di quattro piani. E Pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo, la quale disse: «Chi è a quest'ora?» «La fata è in casa?» «La fata dorme e non vuol essere svegliata. Ma tu chi sei?» «Sono io!» «Chi io?» «Pinocchio!» «Chi Pinocchio?» «Il burattino, quello che sta in casa con la fata!» «Ah, ho capito! Aspettami costì che ora scendo giù e ti apro subito!» «Spicciatevi, per carità, perché io muoio dal freddo!» «Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta». Intanto passò un'ora, ne passarono due e la porta non si apriva. Per cui Pinocchio, che tremava dal freddo, dalla paura e dall'acqua che aveva addosso, si fece cuore e bussò una seconda volta e bussò più forte. A quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca. «Lumachina bella, sono due ore che aspetto e due ore a questa serataccia diventano più lunghe di due anni. Spicciatevi, per carità!» ragazzo mio, gli rispose dalla finestra quella bestiola, tutta pace, tutta flemma. Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta. E la finestra si richiuse. Di lì a poco suonò la mezzanotte, poi il tocco, poi le due dopo mezzanotte, e la porta era sempre chiusa. Allora Pinocchio, perduta la pazienza, afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un gran colpo da far rintronare tutto il casamento. Ma il battente, che era di ferro, diventò a un tratto un'anguilla viva che, sgusciandogli dalle mani, sparì nel rigagnolo d'acqua in mezzo alla strada. «Ah sì?» gridò Pinocchio, sempre più accecato dalla collera. «Se il battente è sparito, io seguiterò a bussare a furia di calci!» E, tiratosi un poco indietro, lasciò andare una solennissima pedata sull'uscio della casa. Il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo, e quando il burattino si provò a ricavarlo fuori fu tutta fatica inutile, perché il piede c'era rimasto conficcato dentro come un chiodo ribadito.